Negli ultimi 18 mesi, dopo che il primo ministro Erdogan è salito al potere nello Stato turco, c'è stato diversi cambiamenti sotto l'aspetto anche legislativo e sotto l'aspetto anche di emendamenti che hanno portato la Turchia sui binari richiesti dall'Unione Europea per una partnership. Nelle ultime elezioni per il Parlamento, per il rinnovo del Parlamento Europeo, in alcuni degli stati chiave, quali Francia e Germania soprattutto, la Turchia è stato elemento importante al centro della discussione della campagna elettorale. Perché se da un punto di vista c'è la Germania, che è uno stato che si sente più vicino in questo momento alla posizione turca, e in pratica appoggia la sua candidatura, no, all'entrata dell'Unione Europea, anche perché in Germania c'è una forte presenza turca, di emigrati turchi, c'è anche una forte partnership economica tra i due paesi. Dall'altro lato c'è la Francia, che è un paese più restio, che si sente un pochino, non è molto convinto dall'affiliazione della Turchia, no, alle altri stati europei che fanno parte dell'Unione. Tanto non riconoscono nella Turchia uno Stato che ha fatto ammenda storica del passato. Infatti in Francia, come sappiamo, vive una delle più grandi colonie di armeni scampati al genocidio che all'inizio del secolo c'è stato da parte dei turchi, no? E il governo di Ankara non ha mai riconosciuto questo genocidio e di conseguenza in un recente sondaggio il 53% dei francesi si è riservato di dire che la Turchia non considera la Turchia uno Stato europeo. Lo stesso primo ministro Chirac sa benissimo che cambierebbe molto gli equilibri anche all'interno dei vari apparati europei in fase decisionale, per esempio diventerebbe il secondo Stato con membri di rappresentanza nel Parlamento europeo dopo la Germania. E oltre a questo, essendo proprio una nazione così grande, cambierebbe totalmente le reti economiche in questo momento e tengono in equilibrio l'asse dell'Unione. Se andiamo a analizzare proprio sotto l'aspetto economico, no? Quello è avvenuto recentemente in Turchia, il 2003 è stato, si può dire, un anno molto positivo, cioè soprattutto nella prima parte, perché a livello di investimenti, a livello sia di importazioni e esportazioni, la Turchia ha avuto un notevole incremento che ha aumentato il PIL. Però negli ultimi 3 mesi, per via di una forte svalutazione, c'è stato un crollo in pratica delle entrate, no? E da un anno che sembrava chiudersi in maniera ottimale, c'è stato un ribasso di più di 1,8 miliardi di dollari. Ultimamente c'è stato un accordo proprio tra il governo turco, il primo ministro Erdogan, e il Fondo Monetario Internazionale, anche se va detto ci doveva essere una vigilanza del Fondo Monetario Internazionale su quelle sarebbero state le politiche economiche attuate dal governo. Per quanto riguarda la presenza degli Stati Uniti in Turchia, riguardando anche all'ultimo vertice, proprio in questi giorni Bush ha fatto propaganda definendola già pronta, no, per far parte dell'Unione, sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto anche legislativo. A questo ha risposto però per esempio Chirac dicendo che c'è già un accordo firmato a inizio anno in cui a fine anno l'Unione Europea si riunirà per riguardare un pochino tutte le nuove leggi e disposizioni legislative fatte dal governo turco per venire incontro ai parametri dell'Unione Europea. Non a caso infatti negli ultimi mesi Erdogan e il suo governo si è dato da fare per fare riforme sotto l'aspetto sia dei dettati costituzionali, infatti sono state levate ogni forma di riferimento della pena di morte dalla Carta Costituzionale, oppure anche c'è stata una riforma sotto l'aspetto delle radiodiffusioni e dei media, in cui si è diminuito il potere militare di diffusione attraverso questi mezzi. C'è stato proprio un avvicinamento, ancora diciamo che a fine anno ci sarà un incontro in cui verranno proprio riviste tutti questi nuovi accorgimenti, questi nuovi cambi di politica fatti dal governo turco per valutarle se sono un buon segno affinché possano avvicinare la Turchia definitivamente all'Europa oppure no.